Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. A lunedì a Radio 24 si parla di trasporti e di logistica e oggi iniziamo a farlo con Marco Di Gioia, che è il segretario generale di UETR, l'Unione Europea delle Imprese di Autotrasporto. Di Gioia è collegato con noi da Bruxelles, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Allora, con lei vorrei tracciare un focus sul settore dell'autotrasporto a livello continentale. In Italia il comparto è in sofferenza, lo raccontiamo da mesi nelle nostre cronache, problemi di liquidità, pagamenti ritardati, tariffe abbassate unilateralmente dai committenti. Ecco, allora, come vanno le cose negli altri paesi? In media si parla di un impatto sulla cifra di affari, sull'attività economica delle aziende del 20%, soprattutto nei paesi cuore a livello europeo come Germania, Regno Unito, a parte la questione Brexit, Francia, Spagna e in Italia. Naturalmente la situazione è una media, quindi varia a seconda dei paesi. La Francia ha perso il 40% del proprio fatturato, c'è stato un fortissimo calo di domanda e soprattutto l'impatto è stato nella produzione trasporto, nel nostro caso di prodotti freschi, oltre il 50% di calo e anche il trasporto container ci risulta che abbia sofferto moltissimo in Francia. Al tempo stesso il governo sta aiutando molto la categoria. In Belgio la situazione è un po' diversa, il calo si attesta intorno al 30%, con alcuni settori praticamente non toccati e altri, questo è peculiare, invece molto di più, come il settore dell'organizzazione di eventi e trasporto e logistica per eventi. Dato interessante, ci risulta che la velocità commerciale media in Belgio però sia aumentata, sia salita a causa del minore traffico e questo ha un po' aiutato il trasporto delle poche merci che ancora si potevano trasportare. Altri paesi? La Croazia è molto attiva nella produzione di medicinali, ad esempio farmaci oncologici, che non sono stati purtroppo trasportati verso l'Italia appunto a causa del coronavirus. La Spagna ugualmente è stata molto colpita, nel periodo di marzo c'è stato un calo di oltre il 22%. I paesi del nord Europa si mostrano più resilienti, riescono a rispondere meglio a questa crisi e secondo le stime la Germania è la prima che riuscirà tra i paesi della vecchia Europa, del cuore dell'Europa, a riprendersi. Dall'Europa sono in arrivo tanti quattrini come robusta, diciamo, cura ricostituente dopo questi mesi terribili. Ecco, rispetto a queste risorse, l'autotrasporto cosa chiede in particolare? Alcuni punti importanti. Noi come UETR abbiamo detto che questi denari e questi piani finanziari che dovranno essere approvati ora dal Parlamento e dal Consiglio, cioè dagli altri due istituzioni europee il prima possibile, devono tener conto, uno, della specificità delle micro, piccole e medie imprese che sono la gran parte dei trasportatori in Europa. Due, chiarezza sui fondi. Tre, c'è la necessità di misure a brevissimo termine, cioè ci vuole una carica subito, come quando la macchina si ferma e si deve dare la carica alla batteria. Subito, immediata, a breve, brevissimo termine alle piccole e medie imprese. E poi dopo possiamo guardare anche a investimenti a lungo termine, non solo per le aziende, ma anche le infrastrutture. Questo è fondamentale per far ripartire un settore che è cuore dell'economia europea. Marco Di Gioia, segretario generale di UETR, l'Unione Europea delle Imprese di Autotrasporto. Grazie per essere intervenuto ad Hashtag Autotrasporti e buona giornata. Grazie a voi. Rimaniamo in ambito internazionale. La Svizzera ha annunciato all'Unione Europea, lo ha fatto nell'ultima riunione del Comitato Misto, l'intenzione di aumentare il pedaggio per i veicoli Euro 4 e Euro 5 in transito sulla rete della Confederazione. Obiettivo: incentivare il rinnovo delle flotte con mezzi più moderni in circolazione, vuol dire veicoli meno impattanti sull'ambiente e più sicuri. Non è ancora chiaro quando questa misura scatterà, anche a fronte della richiesta di chiarimenti avanzata dai rappresentanti dei paesi dell'Unione. Un'altra notizia riguarda il traforo del Fréjus. In seguito all'emergenza sanitaria è stata rimandata l'entrata in vigore del divieto di transito per i veicoli oltre le 3 tonnellate e mezza, Euro 3 ed Euro 4, che avrebbe dovuto scattare la scorsa settimana. In realtà è una proroga condizionata. Per accedere al tunnel con veicoli di queste classi occorre infatti presentare una certificazione attestante l'impossibilità di utilizzare mezzi più moderni, appunto a seguito dell'emergenza. Dall'Europa alla Cina, dove a maggio la ripresa dell'industria dei trasporti ha registrato un'accelerazione. Il Ministero dei Trasporti ha fatto sapere che durante i primi 5 mesi dell'anno gli investimenti fissi nel settore dei trasporti hanno raggiunto una cifra equivalente a oltre 144 miliardi di dollari, con un aumento dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La capacità di carico nei porti del paese è aumentata del 4,4% su base annua, raggiungendo a maggio 1,26 miliardi di tonnellate. Pensate, sempre a maggio in Cina 7,38 miliardi di pacchi sono stati consegnati tramite i Corrieri Espressi, con un aumento del 41,1% rispetto all'anno precedente. E ora parliamo di sicurezza stradale, un tema caro a questo programma, come ben sapete. Lo spunto, per meglio dire la notizia, arriva da ANAS, che nei giorni scorsi sulla Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il bando relativo ad un accordo quadro quadriennale del valore di 280 milioni di euro per la produzione, fornitura e posa in opera della nuova barriera spartitraffico centrale in Calcestruzzo. Una barriera che ha superato tutti i crash test e che ha la caratteristica di essere particolarmente resistente negli spazi ridotti, una caratteristica molto importante per la conformazione della nostra rete stradale. Anche sul fronte della manutenzione questa barriera ha costi inferiori. Ne parliamo con Massimo Simonini. Massimo Simonini è l'amministratore delegato di ANAS, è collegato con noi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Questa barriera spartitraffico ha un nome, National Dynamic Barrier ANAS, e appunto dal nome si evince che è stata ideata e progettata direttamente da voi. Beh, ANAS ovviamente è in prima linea per la sicurezza nei trasporti. Noi ci teniamo molto ai nostri utenti e quindi cerchiamo sempre di rinnovarci, e così l'abbiamo fatto con queste barriere centrali, spartitraffico centrali in Calcestruzzo, che abbiamo progettato, crashato, quindi verificato, e quindi siamo partiti con questo bando di gara da 280 milioni, molto importante, in cui tendiamo ad andare a riqualificare le barriere che abbiamo già in esercizio, che oramai sono vetuste, quindi andiamo a inserire queste nuove barriere di sicurezza, più sicure, più performanti, e addirittura intendiamo andarle ad adottare anche sui tratti di strada dove non abbiamo le barriere, quindi dove abbiamo le classiche doppie strisce continue, e quindi aumentare quindi la sicurezza di questi tratti stradali che oggi ci creano particolari criticità. Il bando da 280 milioni riguarda 16 lotti, leggo nel vostro comunicato. Il bando riguarda tutta Italia, ovviamente, sono 280 milioni, riguarda tutta Italia, tutte le regioni italiane, diversificate per importo a secondo delle necessità di ogni regione, e quindi abbiamo, diciamo, coperto tutto il territorio. Consideri che noi già abbiamo installato le barriere, non è la prima installazione, già le abbiamo già installate sul A2, sul raccordo di Salerno, le stiamo per montare sulla Basentana e sul tratto Umbro-Emiliano delle 45, quindi abbiamo nel complesso programmato interventi per oltre 1140 chilometri, quindi è già una programmazione importante. Massimo Simonini, amministratore delegato di ANAS, grazie e buona giornata. Te la ringrazio, arrivederci. Tornano gli scioperi, torna la tensione sulle banchine. A riaccenderla il tema dell'autoproduzione delle operazioni portuali, che secondo FILT CGL, FIT CISL e WIL Trasporti è una pratica utilizzata per abbattere i costi creando fenomeni distorsivi del mercato e della concorrenza. Sullo sfondo anche la questione del rinnovo dei contratti di lavoro, di qui la proclamazione di uno sciopero di 24 ore, venerdì 24 luglio, di tutti i lavoratori del comparto, quindi marittimi, operatori portuali, equipaggi dei rimorchiatori. L'aggiornamento dal mercato dei veicoli oggi arriva da quello dei rimorchi e dei semirimorchi. A leggere i numeri si traggono spunti apparentemente confortanti. A maggio infatti il calo è stato solo dell'1% rispetto a 12 mesi prima, ma secondo URAE, che ha diffuso l'aggiornamento statistico, si tratta di un dato poco realistico. Secondo i costruttori esteri infatti a maggio sono state completate le pratiche di immatricolazione rimaste in sospeso nei mesi precedenti in seguito alla chiusura degli uffici della motorizzazione. Al Al di là del dato ambiguo di maggio, nei primi 5 mesi dell'anno le immatricolazioni di rimorchi e semirimorchi sopra le 3,5 tonnellate sono crollate del 43,1%. L'ultimo flash, l'Agenzia delle Dogane informa che da dopodomani e fino al 31 luglio le imprese di autotrasporto possono chiedere il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione consumato nel secondo trimestre 2020 da tutti i veicoli di massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate. Sono esclusi i veicoli Euro 2 o di classe inferiori. Termina qui oggi hashtag autotrasporti. Noi con questo programma ci risentiamo come sempre lunedì alle 13.45 e come sempre vi ricordo anche l'appuntamento del sabato. Massimo De Donato in onda alle 13.15. Con Container, un approfondimento su questi temi, ora gli aggiornamenti delle 14 da Andrea Ferro, grazie per l'attenzione e una buona giornata. Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.